Restiamo in argomento. Probabilmente ricorderete tutti una serie di immagini pubblicitarie che fino a qualche giorno fa facevano bella mostra di sé sui muri cittadini a piena pagina sui principali quotidiani, e quelle che mostravano delle figure femminili in attività e acconciature che al mondo femminile anche adesso normalmente non si associano. Donne intente a saltare da una viana all'altra nella giungla, oppure addobbate con la foggia tradizionale del capitano pirata, no? Con tanto di tricorno e benda sull'occhio. Si trattava della campagna a favore di un periodico per signore, le cui lettrici, si garantiva, incarnavano un'idea sconfinata di donna, al punto da richiedere per essere correttamente definite l'invenzione del vocabolo uoma, che dovrebbe essere, immagino, il femminile grammaticale di uomo impiegato a garanzia del fatto che d'ora in poi quante in quel settimanale si riconoscono in nulla dovranno considerarsi deprivate rispetto alle loro eventuali controparti maschili. Tanto è vero che potranno assumersi senza problemi qualsiasi concepibile ruolo sociale, compresi quelli di Tarzan e di Capitano Uncino. Ora, già la scelta di simili personaggi pone qualche problema. Qualcuno, per esempio, potrebbe chiedersi quanto possa essere considerato corretto per chiunque, uomo o donna, identificarsi con un personaggio ostensibilmente afflitto da una menomazione fisica quale la perdita dell'occhio e successiva applicazione di una benda. Non si dovrebbe fare dello spirito sulle disgrazie altrui. E la cosa dovrebbe essere considerata gravemente offensiva nei riguardi di chi da quella menomazione è effettivamente colpito e non la vive come una fortuna da cui rallegrarsi. Ma sappiamo tutti che delle disgrazie altrui poco si cura con i tempi che corrono chi si propone di far comprare qualcosa a qualcun altro. Lasciamo pure perdere la benda sull'occhio e osserviamo che quella pubblicità poteva offendere anche sotto altri aspetti. A me risulta, per esempio, che un certo numero di colleghe qui di questa radio non sono state precisamente entusiaste all'idea che la piena realizzazione dello stato femminile dovesse identificarsi di necessità con l'adozione di ruoli e definizioni maschili. Credo anzi che sia grazie a un loro sagace intervento se una variante parlata di quella campagna è stata pietosamente rimossa dal nostro palinsesto. Io aggiungerei che anche dal punto di vista linguistico il tentativo di imporre artificialmente alla comunità parlante dei vocaboli che allo stato nessuna persona usa né intende usare potrebbe essere considerato una discreta prepotenza. Per non dire che la sola idea che qualcuno, per aver avuto un'idea di così sublime idiozia, ne abbia ricavato un profitto che temo possa essere stato cospicuo, non può che offendere quanti si guadagnano da vivere col classico sudore della fronte. Ma lasciamo perdere. Se vi parlo di questa infelice trovata pubblicitaria, perché mi ha fatto venire in mente un'osservazione che nella sua ovvietà finora mi era sfuggita. In nessuna delle lingue di cui ho maggiore o minore conoscenza o sulle quali ho potuto raccogliere qualche informazione attendibile, i termini usati per definire uomo e per indicare uomo e la donna nascono dalla stessa radice. In greco, anerginee, nelle lingue neolatine, homo e mulier, in quelle germaniche, man e vaib, in quelle slave, in arabo, in turco, in cinese, in giapponese, uomo e donna si dicono in modo affatto diverso. C'è solo una parziale eccezione in inglese, in cui la sillaba finale di woman deriva evidentemente da man. Si spiega con un'integrazione recente di un'originale radice germanica, quella che si trova nel tedesco vibe, nello stesso inglese come wife. Woman sarebbe la wife of the man, la femmina dell'uomo, e comunque si voglia considerare questo termine, è poco ma sicuro che contiene ben distinte entrambe le radici, confermandone la distinzione. Per quel che so io, soltanto in tedesco e in giapponese, a riconoscimento della leggendaria precisione dei relativi popoli, o della leggendaria pedanteria dei relativi popoli, esiste un termine neutro che indica tutti gli appartenenti alla nostra specie senza specificazione di sesso. Tutte le altre lingue impiegano in senso generale l'espressione maschile, e se questa è ovviamente conseguenza di un certo sviluppo storico, vale la pena di notare che non si tratta di una conseguenza obbligatoria. In greco, per tutti gli animali che non siano uomo, vale esattamente il contrario. Naturalmente, Naturalmente la mia cultura linguistica è limitata e nulla garantisce che in qualcuna delle circa 5.000 lingue diverse che, stando ai più recenti calcoli, si parlano al mondo, le cose stiano in tutt'altro modo. Mi piacerebbe scoprirlo, anche se dubito che la situazione attuale degli studi linguistici lo consenta. Ma anche così possiamo ricavare tutti un certo conforto dall'osservazione del fatto che il linguaggio, almeno nei casi a noi noti, si dimostra più ragionevole dell'ideologia. La denominazione, in fondo, presuppone la diversità. Si indicano con nomi diversi realtà che di primo acchito si identificano appunto come diverse, e come appunto sono diverse al punto da poter essere definibili per opposizione reciproca la persona maschile e quella femminile. Che poi questa diversità possa e debba essere ricondotta ad unità su un altro piano è una scoperta successiva, è un'acquisizione storica, culturale, il frutto e portato dell'evoluzione civile. Ma il fatto che le due radici diverse siano restate nell'uso dimostra la possibilità, nonostante tutto, di mantenere le due realtà a cui si riferiscono sullo stesso piano, di considerarle autonome e appunto dotate, quindi, di quella pari dignità di cui pure la storia è stata avara. E femminilizzando un termine maschile o mascolinizzando un termine femminile, applicando cioè delle procedure che nel nostro sistema linguistico sono state inventate per gli aggettivi, non per i sostantivi, si affermerebbe la volontà di considerare una delle due realtà come aggettivale, come aggiuntiva, derivata dall'altra, implicitamente inferiore, come implicitamente inferiori considera le sue vetrici, nonostante ogni affermazione in senso contrario, il periodico che ha lanciato la campagna pubblicitaria da cui siamo partiti. Con il linguaggio si può fare di tutto, ma bisogna essere disposti ad accettarne le conseguenze.